è arrivato un SMS che Pardo è là che nuota con Cassaro, la moglie di Cassari, al lago di Fregene. Tutti convocati di Giovanni Capuano. È importante ascoltare la musichetta della Champions League. Siamo assolutamente consapevoli che la qualificazione non è conquistata, che ci sarà tanto da fare, che c'è il secondo tempo da giocare, che come abbiamo fatto nella partita andata dovevamo essere molto attenti, stando in partita 95 minuti con grande attenzione, con grande determinazione, giocando come sappiamo fare, quindi cercando di attaccare, cercando di creare difficoltà ai nostri avversari, cercando di ribattere pallone su pallone. Le sensazioni per domani sera sono importanti, la voglia di giocare una competizione importante che è la Champions League, la fase di gironi è un altro traguardo importantissimo, io personalmente non l'ho mai giocata, quindi la voglia di arrivare a questo grande traguardo è importante. Importantissimo, sappiamo, è un anno che lavoriamo per questo obiettivo, quindi è chiaro che daremo tutto quello che abbiamo, che daremo il massimo per accettare questo traguardo, che sarebbe un traguardo molto molto prestigioso per noi che ci stiamo lavorando, per la società, per i nostri tifosi, quindi è chiaro che vogliamo ottenerlo. Sì, ci sono un milione o 30 milioni o 40 milioni di motivi per cui la Lazio questa sera deve superare l'ostacolo del Bayer Leverkusen e atterrare di là, dove si sente la musichetta dell'inno della Champions, come ha detto Candreva, che poi alla fine è l'unica cosa che conta di questa serata, che ci dirà se il calcio italiano potrà portare la terza squadra nella Champions League. C'è anche il ranking, c'è il prestigio internazionale. Insomma, ci sono davvero tantissimi motivi questa sera per seguire Bayer Leverkusen Lazio con la voce di Pierluigi Pardo. Pier, come va? Ciao, bene, ragazzi. Localizzati. Sono nella Bayer Arena, perché sai che qui c'è l'albergo che praticamente sta dentro la curva nord, che è quella del Bayer Leverkusen, dello stadio. Addirittura dal sesto piano, dalle stanze al sesto piano, praticamente c'è questa vetrata che praticamente dà sul tabellone, sul retro del tabellone segna punti, appunto, della parte nord dello stadio. Stadio piccolo, però tutto esaurito, 32.000 posti, stasera saranno circa 30.000 per le restrizioni UEFA. E quello che hai detto tu è verissimo, è una partita equilibrata, importantissima per la Lazio, che ovviamente da gennaio ha cominciato la corsa, perché insomma il girone d'andata della Lazio con qualche problema, qualche infortunio era stato discreto, il girone di ritorno era stato straordinario ed è quello che ha consentito alla Lazio di arrivare al terzo posto. Adesso in questi 90 minuti si gioca tutto, lo fa con un 50% di possibilità, secondo me, veramente una partita equilibratissima, con un buon risultato che consente di poter provare a far male, a trovare un gol, però mi aspetto una partita con gol, perché anche all'andata ce ne potevano essere sicuramente di più, quindi... Sì, guai a fidarsi di quell'1-0, Pier, guai a mettersi sulle barricate questa sera, sì, io penso, perché sarebbe probabilmente l'atteggiamento più sbagliato. La Lazio secondo me il gol lo può fare, non sono così certo che il Bayern non ne possa fare tre eventualmente dopo, però io credo che l'1-0 sia un ottimo risultato, che può consentire di fare la partita aspettando, cercando di colpire. Insomma, non è la prima volta in questa stagione che questa squadra si trova di fronte a delle pressioni. Non dimentichiamoci la settimana veramente di passione che ha vissuto fra la sconfitta nel derby e la trasferta di Napoli. Quindi è una squadra che ha dimostrato di avere la personalità per poter uscire da queste situazioni. È chiaro che l'esperienza di Klose può mancare, quella di Billy in mezzo al campo pure, e sono assenze pesanti, però il Bayer Leverkusen dietro secondo me ha dei punti di debolezza, e insomma, se Candreva e Felipe Anderson trovano una grande serata, Keita ovviamente la Lazio può farcela. Bisogna essere organizzati, attenti come il plotone di un esercito in questo mercoledì, che è anche quello di Full Metal Mario. e poi ne parleremo, i 10 comandamenti del Milan per Mario Balotelli, che secondo me uno l'ha anche già infranto con quel messaggio su Facebook di mezzogiorno. Poi vi dirò, 800 24 00 24, io però voglio sapere cosa ne pensate voi delle regole che Balotelli ha dovuto sottoscrivere per firmare il suo contratto col Milan, quindi 800 24 00 24, oppure se volete scrivervi sms al 349 238 6666. Per restare alla Lazio, c'è il rimpianto di giocarsi questa partita che vale una stagione, e abbiamo visto l'anno scorso col Napoli, Pier, cosa significa dal punto di vista anche psicologico eventualmente andare fuori. C'è il rimpianto di farlo senza mezza squadra, perché Biglia, Klose, Djordjevic, Marchetti sono assenze che pesano. Hai voglia di dire che ci sono gli altri? Sì, sono quattro assenze che pesano. Secondo me quella che pesa di più in assoluto è quella di Biglia, che è un giocatore che per l'esperienza che ha, per la razionalità che ha, è veramente uno dei punti di riferimento della squadra. È chiaro che poi, con tutte le suggestioni legate anche alla partita contro una squadra che conosce bene, insomma, Klose, non dimentichiamoci, è la leggenda del calcio tedesco, l'attaccante che ha fatto più gol nella storia della Deutsche Mannschaft. È chiaro che Klose poteva essere utile, no? Anche proprio come totem per spaventare i difensori avversari, che all'andata sono apparsi francamente l'anello debole della squadra tedesca. E poi le altre due assenze, Marchetti ovviamente è il titolare, ma Berisha ha dimostrato varie volte di sapersi far trovare pronto, quindi questo mi preoccupa un po' meno. E Djordjevic chiaramente potrebbe essere un'altra soluzione, ma la Lazio l'anno scorso, dopo quell'infortunio col Milan, ha imparato tante volte, purtroppo per la squadra di Pioli, a dover convivere con la sua assenza. Quindi poi alla fine, secondo me, l'assenza veramente, la mazzata, è quella di Biglia in mezzo al campo. Di là è una squadra, San Bayer Vertuto è una squadra forte davanti e debole dietro. Sì, una squadra che però a Roma onestamente avrebbe anche potuto raccogliere di più, poi alla fine ha perso, ma avrebbe anche potuto vincere la partita. C'è stato un largo tratto in cui l'ha dominata. Se volete mandarci il vostro pronostico, 800 24 00 24. Io per oggi, non c'è Carlo, non voglio sentir parlare di gufi, perché è vero che se la Lazio esce, Juventus e Roma si spartiscono qualche milioncino di euro in più. Io arrivo al paradosso che se la Lazio esce e poi fa una discreta Europa League è anche meglio per il ranking UEFA. Tu sai come la penso, però oggi guarda, cerchiamo di restare coperti e allineati. Però qui il discorso è sempre lo stesso. Tu non potrai chiedere ai tifosi della Roma stasera di fare Lazio, così come non potrai chiedere ai tifosi di Lazio di fare Roma quando giocherà in Champions la squadra di Garcia. Al cuore non si comanda, e questo è indiscutibile, ognuno fa quello che vuole. È evidente che da un punto di vista razionale e di orgoglio per il nostro calcio, questa serata è fondamentale. Non voglio dire che sia decisiva, però insomma, i discorsi che tu conosci meglio di me legati al ranking, la sfida diretta ai tedeschi, oggi è un passaggio cruciale. Cioè, noi oggi abbiamo cominciato dall'anno scorso un percorso virtuoso che ci ha riportato a rivedere, non più in cartolina come si dice a Roma, ma un po' più da vicino la possibilità di avere quattro squadre in Champions League. Se oggi dovesse arrivare un risultato positivo, questa possibilità crescerebbe, se dovesse arrivare un risultato negativo, questa possibilità, non dico che verrebbe meno, ma sarebbe certamente meno probabile, al di là del fatto che poi, lo ricordiamo, l'Europa League vale come la Champions, però ci sono i quattro punti di bonus. No, ci sono mille motivi, secondo me, mille motivi buoni per potersi augurare una vittoria, un risultato positivo per la Lazio. Detto questo, non potrei chiedere, insomma, ai miei amici romanisti, gli puoi chiedere di rifare Lazio così come ai miei amici laziali quando poi gioca la Roma in Champions, perché quello fa parte dell'irrazionalità del tipo, e quindi poi noi. Ma se la accettiamo, consapevoli che se la Lazio dovesse passare si troverebbe proprio con la Roma nella terza urna del sorteggio. Quello della Roma è una buona notizia, però attenzione, ottima, ne parleremo domani, perché in realtà da quest'anno dobbiamo abituarci a parametri diversi per il sorteggio. Sarà tutto molto più complesso, complesso anche per la Juventus. Pensa che la Juventus potrebbe pescare un girone da incubo con un inglese, ad esempio uno dei due Manchester, il Siviglia o l'Atletico Madrid e il Wolfsburg dalla quarta fascia. Partendo da testa di serie. Guarda, hanno deciso di fare questo cambiamento, che se vuoi è un po' tradizionalista, no? Nel senso che hanno deciso che le otto squadre che hanno vinto gli otto principali campionati, quindi anche quello russo, quello olandese, che onestamente, insomma, è ovvio che il Real Madrid, che è arrivato secondo, sia più forte del PSV o dello Zenit, almeno sulla carta, insomma. E quindi questo elemento aumenta la possibilità di avere dei gironi clamorosi e dei gironi invece molto semplici. e quindi rende il sorteggio di domani pomeriggio a Monte Carlo per certi versi ancora più importante, ancora più decisivo. Sì, ancora più emozionante. Pier, ti saluto con un compito. Vogliamo sull'account di Tutti i Convocati la foto del retro del tabellone della Bay Arena. Quindi mando, Claudia Schiattone è lì che l'aspetta, chiocciola Tutti i Convocati per la faccio dalla porta della stanza, guarda, per poi ritwittarla. Grazie, buona partita. Senz'altro, ragazzi. Ciao Pier, a domani. Scrive un amico: potrei scommettere su Rocco Siffredi che rimane casto per un anno, ma su Balotelli che rispetta un decalogo manca un centesimo. Egidio, perché? 800 24 00 24. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Tutti convocati. Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Signore, sì, signore! Come ti chiami, faccia di merda? Mario Balotelli. Da dove cazzo vieni comunque, soldato? No, io abito a Brescia. Sei un po' emozionato, sei un po' nervoso? Ma devo cominciare a lavorare da oggi e fare un buon anno. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scopare mia sorella. Chi sta parlando? Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Secondo me non capisci di calcio. Brutto sacco di merda, io ti metto sotto, ti farò un culo così. Qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta, ti faccio vedere io. Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio. Ti cago in gola. Non mi interessa adesso. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know. Secondo me Mihajlovic è anche peggio. Maurizio Crosetti. Sì, forse sì, però ciao. Volevo segnalarvi, al di là che è leggendaria questa clip, questa audio clip, mi complimento e anche mi sganascio, però volevo Claudio segnalarvi Schiattone, Gianmarco Ferronato, così diamo paternità e maternità. Questo va detto, però c'è un piccolo errore, direi non tanto tecnico quanto proprio forse di complemento oggetto. Cioè io qui penso a Palla di Lardo, naturalmente, se sento questo sergente, e se penso a Palla di Lardo non penso a Balotelli ma a quello che oggi si è fermato per un problema muscolare. Bravo, a Cassano, tanto a sempre Cassano, di ritorni si tratta, quindi rimaniamo sempre in tema, perché sempre si parla di questi cavalli di ritorno, cavalli insomma, nella migliore delle ipotesi sono cavalli, ma insomma potrebbero essere anche altri tipi di animali. Si spera che siano cavalli, vabbè, non esageriamo, potrebbero dai, essere ronzini. Oggi ti ho letto su Repubblica, gradevolissimo, il Corriere dello Sport invece ha fatto la tabella degli ultimi 6-7 ritorni eccellenti, e insomma il bilancio non è stato straordinario. Tornando a Full Metal Balotelli, 800 24 00 24, noi ci scherziamo, vorrei sapere anche cosa ne pensate. Mi viene da dire cosa non si fa per provare a riportarlo sul pianeta degli atleti praticanti. Ma è come, guarda, anche lì una cattiveria dietro l'altra, ma voglio dire, tanto quando vengono naturali perché tenerle dentro? No, mi viene in mente vedere Balotelli che torna al Milan è come vedere queste immagini, secondo me molto tristi, di Berlusconi che fa la ola con Umberto Smaila, no? Ricordando i tempi, di bei tempi, Smaila è bei tempi, pensa se erano brutti come potevano essere, come se il passato potesse tornare a tutti i livelli, da una serata in discoteca in Costa Smeralda a un'azione nell'area piccola. In realtà il passato non torna mai, e qualche volta non c'era neanche mai stato, perché Balotelli qualche cosa di buono l'ha fatto, ma è persino improprio parlare di ritorno, di qualcosa che può essere ritrovato. Io penso che Balotelli, al di là di qualche sprazzo, di qualche bella cosa e di molta sofferenza, ma quella che ha indotto, quella che si porta dentro, i pasticci, l'intorcinamento mentale e forse anche esistenziale, le bizzarrie, insomma, al netto di tutto quello che fa notizie, spettacolo e restando in campo, è davvero poco quello che può ritornare, perché torna quello che c'era, ma se non c'era non torna. Sì, il paradosso, Maurizio, è che in campo il meglio Balotelli l'ha dato in quella parte di carriera che forzatamente o non lo so vuole dimenticare, cioè quella all'Inter, dove era un ragazzo fresco, entrava, decisivo. Non è vero che non ha avuto un ruolo nel triplete, non è vero che non ha avuto un ruolo in quegli scudetti lì di un Inter che pure era una spanna sopra tutti gli altri. Il paradosso è che il meglio l'ha dato lì, da lì in poi è stata una discesa. È così, io lo ricordo addirittura al debutto forse aveva già giocato uno spezzone in campionato, non ricordo, però insomma in una partita di Coppa Italia contro la Juve lui entra a Torino, e sono molti anni fa, la Juve giocava all'Olimpico ancora, per cui insomma adesso l'anno esatto non lo ricordo, ma è facilmente rintracciato, insomma il primo anno di Balotelli, quando passò di fatto dal settore giovanile alla prima squadra dell'Inter. E quella sera avevamo tutti la sensazione che c'era lì un fenomeno, che c'era un ragazzo in campo di un'altra categoria, un po' come quando, senza bestemmiare in chiesa, le prime apparizioni di Pogba, la stessa cosa, cioè qualche volta capita, raramente, ma qualche volta capita, e quando vedi entrare un ragazzo e tocca un po' di palloni, guardi come si muove, come cerca lo spazio, come va il tiro, anche la strafottenza che ha nelle giocate, dici questo qui è di un altro pianeta. E il problema è che Pogba era davvero di un altro pianeta, Balotelli era solo, cioè c'è rimasto su quel pianeta, purtroppo, devo dire, perché poi le potenzialità c'erano, potevamo avere un grande giocatore. Sì, tra le mille regole che il Milan ha imposto a Balotelli c'è anche quella del divieto dell'uso dei social network su argomenti che riguardano la società, mezzogiorno e 5 minuti su Facebook. Scrive Balotelli: grazie al Liverpool, grazie ai suoi tifosi, vi sosterrò per sempre, ma questo è un addio e non un arrivederci. Non lo so se al Milan siano contentissimi. Sì, ma sono tutte clausole che poi fanno molto primo giorno di scuola, fanno molto teatrino con parti, con copione obbligato, ma in realtà non si può mettere a nessuno, e oserei anche aggiungere per fortuna, non si può mettere una clausola che dica tu non puoi essere quello che sei. Era come quando, parlando di un fenomeno e non di un giocatore mai compiuto, non incompiuto ma mai nato, cioè Maradona, mi faceva ridere tanti anni fa quando si sosteneva e si pretendeva che lui, se non avesse avuto tutta quell'ombra, sarebbe stato grandissimo, se lui si fosse allenato sempre, se non fosse stato lunatico. Ma vale anche un po' per Cassano questo, parlandone da vero, non da vivo, ma da quando Cassano era vero, no? Ma se tu pretendi questo, che è impossibile, pretenderesti che lui non fosse, che loro non fossero come sono. Quindi Cassano al netto delle cassanate non è più Cassano, Maradona al netto delle mille bizzarrie che aveva, oltre a una grazia smisurata, che mi vergogno quasi solo a nominarlo al cospetto di questi altri, comunque insomma era solo per capirci, non sarebbe stato mai Maradona. Quindi non puoi dire a Balotelli, sai che c'è, tu da oggi non sei più Balotelli, è impossibile. Sì, scrive qualche amico: chi nasce quadro non può morire tondo, è stato uno sbaglio richiamarlo. Può morire quadrado, però. Può morire quadrado. A proposito di quadrado e di cavalli di ritorno, che sono un po' la cifra di questa parte di mercato, secondo me l'unica certezza, per fortuna mancano 5 giorni, poi il mercato è finito, l'unica certezza che esce da, insomma, anche dal primo weekend del campionato, è che la traversata del deserto della Juventus sarà forse un po' più lungo e complicato di quanto si prevedeva. Forse sì, ma bisogna considerare le assenze, non era la squadra titolare, e bisogna considerare che è meglio capire subito quello che manca per provvedere eventualmente. Poi certo che, l'abbiamo detto per tutta l'estate, ci sono personaggi insostituibili, non perché tu non possa trovare un omologo tecnico, tattico, ma perché non puoi inventarti un altro personaggio del carattere, della classe, di Pinco, di Pallo, di Tevez, di Pirlo, di Vidal. Ma questo lo si sapeva, 2 su 3 sono voluti andare via loro, e quindi non si può neanche dire a Juve li ha ceduti, no, sono andati, e quindi c'è da ricostruire un progetto, un modo diverso di arrivare in porta, ma la Juve sta lavorando molto sulle fasce, sulle alternative per il cross, che è giusto perché è un centravanti ariete che prima non aveva, e quindi Cuadrado anche in questo senso è un uomo di fasce, di cross, di dribbling, di uomo saltato, e non è finito il mercato. Poi certo che la Juve dell'anno scorso non l'avremo più, perché comunque in 2 anni di fila è quasi impossibile arrivare a vincere di nuovo Scudetto, Coppa Italia e andare in finale di Champions, questo lo sanno anche loro. Però questo non significa che per il campionato italiano una Juve che trovi l'assetto presto non basti, e magari avanzi, magari senza l'avanzare, ecco, non basti per vincere il campionato. Prima bastava e avanzava, sì, adesso secondo me lo vincerà lo stesso. Bisognerà sudarsela un po' di più. Poi noi ripetiamo da giugno che la Juve ha fatto benissimo a cogliere l'attimo per cambiare il ciclo. Poi un giorno ci racconteranno anche esattamente cos'è che ha in testa Allegri quando dice che c'è piena sintonia con la società sul mercato, perché questa del numero 10 rischia di diventare un mistero buffo. fino a lunedì la risposta lunedì, non c'è. Alle 23. Se da lunedì non arriverà il numero 10, allora sarà interessante chiederci oggi, e chiedere oggi loro. Se vi interessa, lo Schalke ha fatto sapere che non ci sono novità. Conferenza stampa per dire che non ci sono novità, noi le attendiamo con calma. Prima di salutarti, visto che oggi è il giorno dei sergenti di ferro, ti faccio sentire un altro sergente di ferro. Movimento, tutti in movimento, bravo, va bene, dai Anto. Una secchiata di merda quella, dai, muovi sta palla, dai. Aiuta, bravo, va bene, è buona, dai, gioca, dai. Bravo. Questo è uno che non aveva bisogno del sergente di ferro quando si allenava, Maurizio. Immagino sia Ringhio, non lo so. Ringhio col Pisa. Ringhio col Pisa. Beh, ma era riconoscibile, dai. Sì, no, assolutamente. Lui non aveva bisogno di motivatori, assolutamente no. E neanche di clausole. E nessuno avrebbe potuto dire a Gattuso: guarda, tu devi essere un po' meno Gattuso, per fortuna, perché poi se no sarebbe stato un altro. Vedremo, in panchina è una bella scommessa. Fino adesso il buon Ringhio ha un po' toppato come allenatore, però perlomeno dà ai siti, alla rete e anche alle radio la possibilità di fare questi siparietti sempre divertenti a proposito di un campione che naturalmente non era solo folklore, che noi a cui pensiamo sorridendo e lo ascoltiamo sempre con piacere, perché appunto fa la parte un po' del cartone animato che ringhia. In realtà lui è stato un giocatore fondamentale per quel tipo di calciatore che si cerca sempre meno, no? Cioè quello che non è nato imparato, quello che non è stato baciato da nessun dio del pallone, ma che costruendosi è diventato anche più importante degli altri. Una tipologia di calciatore che sul mercato non cerca quasi mai nessuno, preferendo la suggestione, ma che poi quando ce l'hai e lo trovi, mamma mia, sei importante. Sì, l'esatto contrario di Balotelli. E qui chiudiamo. Se uno dovesse pensare, ma secondo te chi è il contrario di Balotelli? Probabilmente pensi a Gattuso. Forse sì, è vero. Forse sì. Maurizio Crosetti, ciao, grazie. Ciao a tutti. 800 24 00 24. Ci sono Alfonso dalla provincia di Padova, Augusto da Trieste. C'è però la borsa prima. Borsa. It's Malachia. 100% Malachia. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire? Arieccice. Tutti convocati. 800 24 00 24. Adesso dai, microfoni aperti. Alfonso dalla provincia di Padova. Alfonso. Sì, ciao a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io volevo fare un pronostico e un augurio per stasera per il Lazio, perché io non sono tifoso della Lazio, però io sono convinto che stasera farà un risultato positivo, anche perché secondo me riuscirà a fare un gol, quindi o Felipe Anderson, Candreva, qualcuno lo butta dentro, e perché secondo me tre squadre italiane nel Champions ci vogliono, insomma. Sì, sarebbe un segnale importante perché la Spagna ne ha 5 per mille motivi, perché sarebbe anche bello riuscire sul campo a battere una tedesca, cosa che negli ultimi anni per il calcio italiano è particolarmente complicato. Sulla Lazio, l'ha detto prima Pierluigi Pardo, il gol è nelle corde, però attenzione a dare per scontata un'impresa che l'1-0 non mette assolutamente al sicuro, anzi, e ricordiamoci che nelle ultime 6 stagioni 4 volte le italiane si sono schiantate al momento del playoff di Champions League. Augusto da Trieste, Augusto. Sì, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Ma guarda, io onestamente non sono molto ottimista, con questo non voglio augurarmi che la Lazio esca, anzi, da tifoso italiano e sportivo soprattutto mi auguro che la Lazio riesca nell'impresa. Però vista la partita d'andata, sinceramente, ecco, non nutro molte speranze. Io penso che la Lazio non ha, ecco, la capacità tecnica per poter portare a casa questa partita. Io penso che il Bayern sia molto più forte e mi auguro di sbagliarmi, ovviamente. Molto più forte no, Augusto. Beh, gioca in certamente casa, ecco, all'Olimpico per un tratto della partita ha dominato e l'ha avuta in mano, e poi per paradosso, ma è il paradosso del calcio, la Lazio il gol l'ha fatto nel momento più difficile. Certo, però certo. È anche vero che l'1-0 è un bel risultato, 1-0 è un risultato sì, che consente un'ampia gamma ottimo. Di punteggi al ritorno, e quindi non si può dire che la Lazio questa sera va incontro a un'eliminazione. La Lazio si è costruita un'opportunità importante. niente. Io credo anche meritata. La Lazio sta giocando il secondo playoff, il primo l'ha perso nel derby con la Roma alla fine della stagione dell'anno scorso, e probabilmente la Lazio avrebbe anche meritato di entrare direttamente nei gironi di Champions quest'anno, e quindi questa sera ci sarà qualche motivazione in più. Corrado da Reggio Emilia. Sì, ciao, buongiorno. Eccoci, buongiorno. No, vorrei solamente, sentivo parlare del discorso di Balotelli. Sì. E vorrei solamente aprire un piccolo quesito, se possibile. Sì. E cioè, se non c'è un progetto da parte, diciamo, dei direttori sportivi italiani, che da buoni italiani, da buoni furbetti, non abbiano questo progetto per dare delle fregate alle squadre straniere. Addirittura, un complotto. Ma certo, io vedo che tutti i giocatori che dall'Italia poi vanno all'estero e vanno via per tanti milioni di euro, almeno così pare, e poi ritornano in Italia che hanno un prezzo nettamente inferiore, sotto costo. Sì, l'altra chiave di lettura, l'altra faccia della medaglia è che probabilmente quelli che vanno bene da noi poi non reggono il confronto con gli altri campionati, a partire dalla questione della condizione fisica, atletica, dall'intensità. Però lo chiediamo a Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Bene, facciamo un complotto noi che li mandiamo scarsi e poi li ripigliamo sotto prezzo, o c'è un problema di qualità di cosa mandiamo in giro? Ma se facessimo un complotto del genere sarebbe la più grande truffa internazionale mai esistita. Saremmo dei geni. No. Sì, credo che invece, voglio dire, può succede ed è evidente che succeda, che i giocatori che fanno la differenza in Italia non riescono ad imporsi come minimo nel campionato inglese. Succede anche il contrario, spesso è successo nel passato che i giocatori inglesi facessero molto male in Italia, giocatori molto forti in Inghilterra che non riuscivano a rendere in Italia. Alle volte dipende proprio anche dalla qualità media del campionato. In questo momento in Italia evidentemente siamo un gradino indietro rispetto alla Premier, ma lo testimoniano anche i risultati in campo internazionale, credo, no? Sì, anche se gli inglesi non stanno brillando nelle coppe. Di solito funzionano benissimo i tedeschi in Serie A. Io non so se ne vedremo di tedeschi o di provenienti dalla Bundesliga. L'abbiamo detto prima, oggi Draxler, conferenza stampa dello Schalke 04, tutti attenti, perché parlava l'ormai mitologico Held, direttore generale, sì, dello Schalke 04. Notizia è che non ci sono aggiornamenti. Io ho timore, fra virgolette, che non ce ne saranno fino al 31. La sensazione che abbiamo noi è che la distanza fra Juventus e Schalke 04 sia difficile da colmare, perché la Juventus parte da un presupposto per cui Draxler non è ancora pronto, e quindi secondo la Juve vale i 15 più 9 di bonus, da cui non si è mai mossa da metà luglio ormai. Secondo lo Schalke 04, che lo vede tutti i giorni, che lo ha fatto giocare nelle ultime gare di campionato, che lo ha fatto giocare in queste prime gare di Bundesliga, l'ultima segnato, il giocatore è completamente ristabilito e vale fra i 30 e i 35. Cioè, mi pare che la differenza in assoluto sia abbastanza grande. Su questi presupposti non si può trattare, non è nemmeno una questione di soldi, è proprio che pensano due cose, cioè, la Juventus diametralmente diverse. Ci deve arrivare, e ci deve arrivare con una base un po' più sostanziosa. Non credo che abbia l'intenzione, non la forza economica, l'intenzione, che è ben diverso. Sì, poi capiremo anche se non ha l'intenzione, perché non corrisponde interamente alle idee di Allegri su che cosa serva al centrocampo della Juventus. Witzel è un'opzione reale o sì, è una suggestione da ultima settimana? No, credo che sia un ottimo giocatore, che peraltro può giocare in diverse posizioni di campo, sia in mezzo che anche nella tre quarti. Forse è più simile all'idea di trequartista che Allegri, solo che è un giocatore caro, lo aveva cercato il Milan, gli avevano detto che per meno di 35 non si muoveva. Nel frattempo lui, tra la prima richiesta del Milan e questo sondaggio della Juve, ha già fatto sapere allo Zenit che non rinnoverà il contratto. Lui ha una scadenza nel 2017, quindi se lo Zenit vuole guardare un po' avanti potrebbe anche cercare di monetizzare la cessione di questo ragazzo prima che sia troppo tardi, perché il prossimo anno avrebbe soltanto un anno alla scadenza e sai che i prezzi devono calare per forza. In più c'è sempre il solito discorso che abbiamo fatto per Crescita per quanto riguarda le squadre russe, con la scelta autarchica di far giocare almeno 5 giocatori russi per ogni partita. Witzel rischia, il rischio è potenziale, non reale, di fare meno presenze quest'anno, quindi e unisci le due cose, ti cerca la Juventus, magari il giocatore spinge un po' di più, però rimane sempre un prezzo del cartellino piuttosto elevato. Sulla Juventus, correggimi se sbaglio, Llorente va a Siviglia, sì. Questo significa che Zaza resta, anche se evidentemente resta controvoglia, ma controvoglia credo anche da parte di Allegri. Poi altra domanda da segnarsi per la fine del mercato, perché la Juve investa 15 milioni su un giocatore che poi un mese e mezzo dopo viene considerato in partenza. L'altra storia è quella di Yaramendi, la sua ipotesi al Milan è durata 12 ore, firmerà per la Real Sociedad, ma queste sono le cose belle del mercato, eh? Esatto, ma sai, ieri si è aperta la caccia al centrocampista del Milan, no? Dopo l'incontro che c'è stato tra Mihanovic e Gagliani, in cui è venuto fuori dobbiamo prendere un centrocampista, credo che sia stata più una vicenda mediatica, più che magari il Milan l'ha chiesto e loro hanno scoperto magari 12 ore fa che sarebbe andato alla Real Sociedad, o almeno mi piace crederlo, nel senso che o non lo hanno chiamato per niente e quindi non potevano saperlo, e quindi è stata la nostra come dire suggestione o iniziativa, oppure non hanno saputo prima di noi effettivamente dove sarebbe andato a finire chiaramente. Il Milan sta cercando un centrocampista preferibilmente in prestito con esperienza internazionale. Sì, si fa il nome di Moutinho, poi vediamo, perché ho l'impressione se ne faranno tanti di nomi, soprattutto se uno ha poco budget. Anch'io ho questa impressione. Moutinho invece secondo me ci vuole un po' più del budget che ha a disposizione il Milan. Questa è notizia di ieri, insomma, quello che abbiamo cercato di raccogliere ieri. Diciamo che questi due nomi ieri non sono stati fortunati, mettiamola così. Poi c'è quell'altra vicenda lì, quella per la quale noi lanciamo un appello: se qualcuno sa qualcosa di Perisic, perché non diciamo più che è la giornata decisiva, perché fa ridere onestamente Luca Marchetti oramai, no? Ormai sono tre le giornate decisive, era un ultimatum che è durato tre giorni. Diciamo la verità, sono gli ultimi cinque giorni decisivi, così non sbagliamo. Bravo, no? Qui mi piace, io quando arrivo a questi fine mercato diciamo fino a quando ce la teniamo? Fino al 31, teniamola aperta fino al 31, tanto ormai non ci costa niente, l'abbiamo tenuta aperta per due mesi. No, la situazione è che l'Inter in realtà tecnicamente prima o poi dovrà decidere se mollare Perisic e andare sulla mela, perché poi ci vuole anche tempo per andare a chiudere un'altra operazione, nonostante ci si possa muovere contestualmente. Però credo che per Perisic ogni giorno, ogni ora che passa lo allontani un po' di più dall'Inter. Il giocatore vuole venire a giocare in Italia, mi sembra che Wolfsburg non lo voglia mollare. Venerdì, se vuoi proprio una data, sì, diamoci una data che non sia le ore 23 del 31, venerdì, che è quasi venerdì banale dire. Il Wolfsburg gioca, se lui dovesse essere convocato domani, io credo che mi sembrerebbe chiara la spina. Beh, se te lo convochi non significa che non lo vuoi vendere. Se lo convochi per la partita dell'ultimo giorno di mercato significa che non lo vuoi vendere. Certo. E quindi a quel punto l'Inter se ne farà una ragione. L'Inter continua a insistere, perché in realtà Perisic è quello che vuole Mancini. Sì, anche perché poi l'Inter se ne sta facendo una ragione. Borini, Lamela, Lavezzi. A proposito di Lavezzi, la nostra Claudia, sì, Schiattone. Lavezzi che dice che è arrivato il momento di tornare in Italia. Ha ripescato dall'archivio questa cosa qui del primo settembre 2014. Sono venuto per restare qua. Sono venuto per restare in Italia. Non lo avevo detto, adesso ti do la conferma a te. Veramente? Sì. Su che sponda? Non ti posso dire ancora, però sono venuto per rimanere qua. Questa è una notizia, che notizia meravigliosa, sì. Sì. Per il calcio italiano siamo veramente contenti, però la risata, non so, mi fa dubitare che forse mi stai prendendo in giro. Era il primo settembre 2014, che notizia meravigliosa, Luca Marchetti. Partita della pace, quella Roma. Sì. Il primo settembre per rimanere qua in vacanza. No, l'anno scorso chiudeva al 3, se non sbaglio, il mercato estivo. È vero, hai ragione. No, questo no, per dire che anche su Lavezzi vedremo, perché poi si fa presto a dire, come ho letto da qualche parte, ma con il massimo rispetto, c'è una differenza di 4-5 milioni tra domande, che è come se fosse nulla. Poi, insomma, per esperienza, sì, negli ultimi 5 giorni succede di tutto. A noi è vero anche, ecco, negli ultimi 5 giorni le distanze si possono accorciare, anche se sono molto ampie, perché c'è la necessità magari di dar via un giocatore per non pagargli interamente l'ingaggio, per esempio, per non averlo scontento nella squadra quando tu magari non ci punti più tanto. A noi risulta che ancora non ci sia neanche l'accordo fra Inter e Lavezzi, che l'Inter abbia fatto un'offerta che Lavezzi sta valutando, perché comunque è un'offerta da prendere in considerazione. Lavezzi deve decidere se vuole guadagnare di meno e giocare di più, magari da protagonista, oppure praticamente giocare pochissimo ma continuare a guadagnare molto. per poi avere la possibilità il prossimo anno di decidere assolutamente da solo, secondo la propria volontà, dove andare a giocare. Non si accettano scommesse, Luca. Detto questo, l'Inter, poi scusami, la Vizia accetta l'Inter, l'Inter deve andare a parlare con il PSG. E quindi non si accettano scommesse, che non è un passo da poco, no. Chiedere al Milan per Ibra. Ti chiedo 30 secondi, un flash, c'è un tifoso, amico, tifoso del Napoli, Michele, preoccupato perché mancano 5 giorni alla fine del mercato, chiede se il Napoli fa un colpo e se c'è il tempo poi di fare il contratto con De Laurentiis. Quella vera domanda è la postilla. Sì, il tempo c'è, il Napoli un centrocampista lo deve fare, credo che lo farà. Il difensore lo fa solo se vende Koulibaly, e Koulibaly lo vende solo se arriva un'offerta da 15 milioni di euro che non è arrivata. E quindi credo che se lo terrà, se questa è l'architettura. Sì. Grazie Luca Marchetti. A te, ciao, buon pomeriggio. Ciao, grazie Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport. Traffico. Tutte puttanate. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Tutti convocati. Un obiettivo numerico non ne ho, però sicuramente mi piacerebbe farne di più di quelli che ho fatto, del mio record che ho fatto, che sarebbe 13. Questo Mattia Destro al Bologna, Marco da Milano. Marco, buongiorno e grazie per avermi convocato. Grazie a te. Sarò brevissimo. Ieri sera, io ho 48 anni, tengo al Milan storicamente, ma non sono un tipo, mi piace vedere il bel calcio, e parlando con un amico ieri sera mi ha fatto notare una cosa: il calcio è diventato come il wrestling, cioè è finto. E su questo devo fare una critica anche ai giornalisti, per questo motivo, sul caso Balotelli in esame. Balotelli lo dipingono tutti come un fenomeno, ma per me i fenomeni sono altri, cioè devono avere tutti i colpi, devono avere il dribbling, devono avere il tiro. Mi sembra più un fenomeno proprio mediatico, come altri calciatori tipo Bale, che per tirare deve spostare la palla sul sinistro, cioè i fenomeni sono altri. Me concludo qua. Marco, in realtà Balotelli ha dimostrato di avere tutto per essere un fenomeno, perché poi non è solo il dribbling. Balotelli è un ragazzo che a 17 anni era capace di avere un impatto devastante giocando con quelli grandi. Ricordava prima Maurizio Crosetti, era capace di andare a Torino in Coppa Italia e vincere quasi da solo, era capace di sostituire Ibrahimovic e regalare a Mancini gol decisivi per lo scudetto, prima che poi Ibra ci mettesse il sigillo a Parma. Balotelli era quello lì, quello che nel 2012 ha fatto un ottimo europeo, ha demolito l'Inghilterra, ha battuto la Germania. Il problema è che poi la parte virtuale, quella mediatica, ha preso sopravvento, e quelle cose lì, quel Balotelli fenomeno, abbiamo smesso di vederlo, abbiamo continuato ad averlo in testa, a inseguirlo, continuiamo forse a farlo, forse questo è davvero l'ultimissimo treno, come dice il Milan, o forse l'ultimo treno è già passato, come dicono tanti, compreso Gigi Riva, che ha detto: abbiamo visto che cosa ha fatto negli ultimi anni e credo che sarà quello che farà anche nei prossimi. Che è una sentenza pesante per chi Balotelli comunque l'ha vissuto nell'ambito della nazionale. Paolo da Verona. Sì, buonasera. Buonasera. Premetto che sono milanista, però voglio parlare e dell'Inter e della Juve. La Juve sì. Mi fa ridere. Pogba 100 milioni ed è prontissimo. Daxer non è pronto per 30 milioni. Questa veramente è la filosofia degli Agnelli, di far pagare agli altri quello che loro non vogliono pagare. Sì, che in sé non è Mancini. Una filosofia sbagliata. No, non è sbagliato. Il problema è che non si può sbagliare poi a costruire le squadre. Non può mica durare in eterno, cioè la gente non è mica fessa. Mancini, per l'amor di Dio, l'unico merito che può avere è quello di aver lanciato Balotelli, perché questo si è fatto comprare 11-12 giocatori e ha fatto punti meno di Mazzarri. Adesso ne vende uno, ne vuole quattro. Ma io non lo so, ma viviamo in un mondo che è rovescio, Sì, c'è un po' di frenesia nel mercato dell'Inter, però quando questo mercato sarà finito, quindi a bocce ferme, se davvero ad esempio la parabola di Zaza fosse quella che viene delineata in queste ore, Anche ad Allegri alla Juventus andrebbe chiesto probabilmente qualcosa, perché su Zaza la Juventus ha investito 15 milioni di euro, ha lasciato Berardi al Sassuolo, ha fatto delle scelte e poi ha pensato invece di tenersi Llorente. È un mercato complicato un po' per tutti. Di certo Mancini tra gennaio, giugno, luglio e agosto è di quelli che si è mosso di più. Grazie, parliamo di atletica. E due americane per il terzo e quarto posto, Vivian Cerio, ma attenzione che Gallette Burka se la gioca la grande, Molly Huddle e Infant per il terzo posto, un derby americano. Vivian Cerio va a vincere, non molla se non nel finale. Burka, Kenya, Etiopia, Stati Uniti, Stati Uniti, attenzione che un'americana batte l'altra, Infant va ad infilare Huddle che aveva sollevato le braccia. Ha sollevato le braccia conscia di essere terza, ma le ha sollevate in vano. Questa è la scena più bella di ieri del Mondiale di Pechino. Saluto Giorgio Rondelli, ciao Giorgio. Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Questa è l'americana Adol 10.000 femminili, convinta di aver vinto il bronzo, alza le braccia, arriva da dietro un'altra statunitense, la Infeld, e la supera e vince la medaglia di bronzo, la fa scendere dal podio. Noi ci consoliamo con queste cose, Giorgio, perché in realtà dell'Italia abbiamo visto poco o nulla fin qui. Beh, abbiamo visto, è vero quello che dici, poco o nulla, non che ci fosse in queste gare assolutamente profumo di medaglie. Dopo la bella maratona con un quarto Pertile e ottavo Meucci, che forse ha perso un'occasione visto che i tre grandi kenioti sono andati fuori di scena, non avevamo atleti su cui puntare per zona medaglia, però si pensava che potessero correre a livello dei loro primati personali o anche migliorarsi, visto che era l'occasione più importante. Invece praticamente sono usciti tutti, a parte la Grenot, che poi però è affondata in semifinale, e oggi c'è stato il passaggio della Hooper, della giovane Hooper nei 200, però con nessuna speranza di andare oltre la semifinale. Il nostro campionato comincerà la notte di venerdì con la marcia alla Giorgi, e dalle 2.30 e poi due ore dopo ci saranno le qualificazioni dell'alto con Tamberi e Fassinotti. La nostra atletica in questo momento è questa. Sì, siamo aggrappati a Fassinotti, Tamberi, poi magari c'è qualcosa nella marcia femminile. Sì, no, beh, può anche essere che un podio salti fuori da qui alla fine, però la fotografia è impietosa. La fotografia è impietosa perché al riguardo è stata emblematica l'intervista della nostra martellista, la Salis, che è uscita fuori questa mattina nelle fasi di qualificazione, che ha detto: noi crediamo di essere molto forti a casa nostra, e poi quando veniamo a queste grandi gare ci accorgiamo che il mondo va avanti, che nuove nazioni crescono. Il Kenya ha vinto la medaglia d'oro ieri nei 400 ostacoli e oggi ha vinto addirittura la medaglia d'oro con 92,38 con Giulio Scego nel giavellotto. Quindi tutti si fanno avanti, noi abbiamo il 90% dello sport di vertice che è militare stipendiato e siamo comunque in queste grandi manifestazioni inadeguate, quindi una qualche riflessione deve venire fuori agli addetti ai lavori. Cosa c'è? Vuol dire che non lavoriamo bene, quando molti dei nostri tecnici migliori del passato lavorano all'estero e ottengono risultati e portano i loro atleti a medaglia. Sì, riflessione da fare anche questa. Oggi i nomi vengono pubblicati un po' ovunque: Sandro da Milano, Gianni Ghidini, Enrico Dionisi, no? Tre, quattro, sì. Cervelli in fuga, ma l'elenco potrebbe essere lungo. Cervelli che credo sia impossibile pensare di riportare in Italia. No, impossibile no, però lì si deve essere data possibilità gestionale, ecco, perché mi chiedo se avere persone tecnici o dirigenti di personalità possa essere, come si può dire, un atto negativo, ecco, governa di volta in volta negli ultimi anni la federazione. Sì, a un anno da Rio de Janeiro non è consolante, abbiamo il rischio che almeno per quanto riguarda le grandi discipline, quelle regine dell'Olimpiade, i nostri giochi l'anno prossimo siano destinati a durare la prima settimana col nuoto, che ci ha dato grandi soddisfazioni anche quest'estate, e poi nella seconda essere invece consegnati alla sofferenza. Abbiamo ancora un minuto, volevo chiedere a Giorgio Rondelli chi vince tra Bolt e Gatlin la rivincita di 200. Bella domanda, oggi ho appena visto le semifinali, direi 50-50. Ha fatto meno fatica Gatlin con, rispetto a Bolt, però Bolt ha corso, è vero, gli ultimi 30-40 metri. Bolt ha continuato a vincere dal 2008 adesso, dando sempre minor distacco agli avversari sia sui 100 che sui 200 metri, è arrivato a un centesimo sui 100 e a 12 centesimi sui 200, ma penso che si deciderà gli ultimi 50 metri. Bolt non può scappare via nella curva perché Gatlin è un centista forte come lui, forse è un po' più allenato, un po' più in condizione, bisognerà vedere se Gatlin non tremerà, non riuscirà a dare il 100% come gli è accaduto sui 100 metri, quindi direi 50-50, non perché non mi voglio sbilanciare, al massimo 51 per Bolt, perché vincere aiuta a vincere. Sì, ma poi abbiamo imparato, Weather per morto, un fuoriclasse come Bolt. Grazie a Giorgio Rondelli. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Giorgio Rondelli. Antonio da Rovigo. Sì, buongiorno. Siamo in chiusura, ma ce la facciamo, prego. No, io volevo tornare al calcio un attimo. Sì. Allora, ho sentito parlare di tutti questi giocatori che cercano all'estero 35, 40, 60 milioni di euro, ma in Italia guardano mai? Io ho visto la partita sabato, Alfredson, quello che ha il Verona. Bel giocatore. Cioè, quello lì è un giocatore di un'altra categoria, cioè, per me può giocare sia al Milan che alla Juventus, che all'Inter, davanti alla difesa, fa tutte e due le fasi, copre e attacca, ha un buon piede. Però Antonio, ho l'impressione che in un'estate in cui le squadre italiane sono tornate a spendere, poi venga logico, venga automatico andare a cercarli fuori, andare a cercare anche il nome. Basti pensare come è iniziata quest'estate con il derby tra Inter e Milan a Monte Carlo per Kondogbia. Poi Mancini domenica dice è forte, fortissimo, diventerà un grande, ma forse è stato pagato troppo. È uno dei problemi del nostro calcio. Ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Giovanni Melchiori in regia, Gianmarco Ferronato in redazione. Gianmarco Ferronato in regia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 14. Capita. Arrivederci ragazzi, ciao.